Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette minuti, inizia l'ultima puntata della settimana di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Torneremo sulla revisione della spesa, non molliamo infatti il colpo, visto che adesso Enrico Bondi si è messo al lavoro, il nuovo commissario, per analizzare e razionalizzare. Nessuno parla di tagli, magari si può anche citare il termine tagliare, ma insomma, il governo dice razionalizzare la spesa pubblica. Parleremo anche di Bondi, ma tra due settimane dovrà esporre il suo programma al Consiglio dei Ministri e parleremo anche con chi ha presieduto la Consip dal 2002 al 2015. Ancora la Grecia, non ci sono solo le elezioni in Francia infatti, ma anche e soprattutto quelle in Grecia. Ebbene, che succede? A due giorni dal voto saranno quasi 10 milioni di elettori chiamati alle urne, di cui oltre 670.000 tra i 18 e i 23 anni sono quelli più colpiti dalla disoccupazione in Grecia, anche su questo avremo un approfondimento. Infine, purtroppo, torneremo sul tema dei suicidi, sia perché leggeremo anche oggi le lettere arrivate all'indirizzo disperati di mai@radio24.it, sia perché c'è stata a Bologna la manifestazione delle vedove delle vedove di imprenditori comunque che si sono suicidati, anche momenti di tensione davanti all'ospedale maggiore di Bologna, quando un imprenditore bresciano è arrivato al raduno con indosso una maglietta scura con scritto "le tasse sono un furto", una donna lo ha apostrofato. Chiariamoci su questo, perché l'iniziativa Disperati Mai l'abbiamo lanciata noi e devo dire ci sembrava importante dar voce a chi è in difficoltà, per vari motivi. Siamo contro l'accanimento di Equitalia, cioè Equitalia deve avere un atteggiamento anche diciamo, ragionevole, capire se uno, come ci hanno scritto molti ascoltatori, ha problemi, i fornitori non lo pagano, ci sono stati errori, ha crediti nei confronti della pubblica amministrazione, lo Stato non può chiederti i soldi subito e pagarti a distanza di mesi se non anni. Però non mettiamo in discussione il principio che le tasse vanno pagate. Se qualcuno è in difficoltà perché improvvisamente deve pagare le tasse e non l'ha fatto fino a prima, beh, questo non è un problema, è un problema che deve cambiare lavoro. Ci siamo? Cioè non è che si può dire "ah, io fino a ieri stavo dentro e riuscivo a lavorare perché tanto evadevo il 70% dell'imponibile". E no, no. Quello che si sta dicendo è non si possono lasciare sole persone che hanno difficoltà anche congiunturali e vedono le banche che chiudono i rubinetti, Equitalia che vuole i soldi tutti e subito e tra l'altro magari hai problemi oltre che con le banche anche con i crediti verso la pubblica amministrazione. Ma nessuno qui, lo dico e poi andiamo avanti con le headlines, ha mai messo in discussione il fatto che le tasse vadano pagate. Solo pagandole tutte si potranno abbassare queste tasse, così come la spesa pubblica va tagliata. Non vorrei che dietro alle critiche sull'operato di Equitalia, che anche noi abbiamo letto, perché delle volte c'è un po' di così di cecità nell'agire, si nascondesse il tema "non voglio pagare tutte le tasse che devo". No, le tasse le paghi tutte tu, come fanno tutti i cittadini corretti di questo paese. Headlines. Partiamo dalla borsa, meno 1,50% Milano che oggi non è la peggiore, ripeto non si può dire in questi casi mal comune mezzo gaudio, meno 1,50% Milano, meno 2% Parigi, meno 2% Francoforte, meno 1,90% Londra e un punto percentuale lo perde anche l'America in questo momento. L'euro è debole a 1,31,11. Che cosa ha influenzato le borse oggi? Beh, i dati sul lavoro negli Stati Uniti, dati risultati non belli, nel senso che sono, pur avendo creato 115.000 posti di lavoro nel mese di aprile, questi dati sono inferiori alle attese e soprattutto è la creazione più bassa di posti di lavoro negli Stati Uniti negli ultimi sei mesi. Il tasso di disoccupazione comunque in America è sceso ai minimi dal 2009, per cui non è un brutto dato, però la partecipazione della forza lavoro, o meglio, il numero degli americani che non fa parte della forza lavoro, è salito al livello più alto degli ultimi 30 anni. La partecipazione alla forza lavoro è quello che noi chiamiamo il numero di occupati, in qualche modo, cioè tu prendi quelli che sono disponibili a lavorare, anche se poi il lavoro non lo trova. Dia Sorin, torniamo alla borsa, meno 3%, diciamo che questi dati hanno influenzato i mercati. Finmeccanica meno 1,30%, Popolare Milano meno 1,20%, Banco Popolare meno 0,90%, Saipem meno 4,20%, Estima Electronics meno 4,20%, Tenaris meno 4% come Fiat Industrial e Fiat Normale, il 3,5% lo perde Pirelli, il 3% Exor, il 2,90% il calo di Tods, il 2,40% quello di Prismian e di Eni, il 2% Autogrill, l'1,80% Ansaldo e anche Atlantia e Mediaset, l'1,70% l'Automatica e l'1,60% il caro di Buzzi Unice, 1,5% lo perde invece UbiBanca. Il mercato invece sembra credere ancora, nonostante l'ultima giornata di campionato, che la Juventus vincerà lo scudetto. Il titolo infatti è il migliore oggi in assoluto, più 8%, il peggiore invece è Nokia, meno 11%. Oh, il petrolio è sceso per la prima volta da febbraio sotto i $100 al barile. Perché? Perché anche sul mercato del petrolio ci si sta rendendo conto che con la frenata dell'economia difficilmente saliranno i consumi di petrolio, e in particolar modo anche qui hanno inciso i dati americani sulla disoccupazione. Nel frattempo dalla Sud America, in questo caso quindi dall'Argentina, anche la Camera, o dopo il Senato, ha approvato con una maggioranza storica, 207 sì e 36 no, l'esproprio del 51% di YPF che appartiene agli spagnoli di Repsol. Insomma, la vicenda è molto controversa perché insomma prima della votazione c'erano decine di organizzazioni politiche, sindacali, sociali davanti alla sede del congresso per celebrare un esproprio. Ora io sarei sempre molto attento a celebrare gli espropri, perché immaginate se una società controllata dall'ENI, che si trova in Argentina, perché insomma la spagnola Repsol è un po' l'ENI in Spagna. Dicevo, se l'ENI, con una società controllata in Argentina, venisse espropriata tout court, senza ma, dallo Stato argentino, voglio dire, no? Veniamo all'Europa, weekend di tornata elettorale. Hollande, François Hollande, il favorito alla presidenza della Repubblica Francese, ha tranquillizzato Berlino sul fiscal compact, quindi sull'adesione che anche la Francia ha fatto alle regole per ridurre deficit e debito e portare il debito entro 20 anni al 60% del PIL. E Schäuble però, il ministro di finanze tedesco Wolfgang Schäuble, durante un comizio elettorale ha detto: attenzione, il fondo salva stati permanente ISM non può essere utilizzato per ricapitalizzare le banche spagnole. Allora vedo alcuni messaggi che dicono: bravo, paghiamo le tasse, bravo comunista, certo, paghiamo tutte le tasse così loro spendono il triplo, cioè la pubblica amministrazione spende il triplo. Allora, uno, non si può dire io non pago le tasse perché sennò la spesa pubblica va alla spreco. Tu paghi le tasse e si chiede, anche votando, che la spesa pubblica venga ridotta. Il secondo aspetto, l'ho detto molte volte, ma è dura farlo entrare come concetto, questo ragionamento lo può fare solo lei, perché evidentemente ha una dichiarazione dei redditi e evidentemente non paga le sue tasse correttamente, da quello che scrive. Ma i lavoratori dipendenti del settore privato, non c'è solo il pubblico in Italia, c'è anche il privato, delle imprese, delle aziende, delle piccole imprese, i dipendenti del commercio, i dipendenti dei servizi, questo ragionamento non possono fare. Loro pagano tutta l'aliquota, che sia 43 o altro, la pagano tutta. E allora? Dati sulla cassa integrazione ad aprile, meno 13% sul mese precedente, a 86 milioni di ore. Il presidente dell'INPS dice però la situazione resta critica, meno 13% rispetto a marzo e meno 5,5% rispetto all'aprile del 2011, ma la situazione resta critica. E poi un dato che riguarda l'IREF, che è l'Istituto di Ricerca delle ACLI. I giovani istruiti e competenti in Italia non trovano lavoro. Il tasso di occupazione delle persone tra i 25 e i 29 anni con alte competenze, che significa poi titolo di studio universitario superiore, è in Italia il più basso tra i paesi europei, il 55,6% contro una media dell'80%. E andava spiegato anche a Renzo Bossi e a Belsito che la laurea qua in Italia non serve a molto. Allora, vedo altri messaggi sul pagando meno tasse, abbassando la pressione fiscale, le pagheremo tutti. Allora, certo, no, guardate, abbassando la pressione fiscale, cioè il cuneo fiscale, ne parleremo più avanti, si otterrebbe, e noi abbiamo più volte chiesto al governo modestamente di operare in tal senso, si otterrebbe una busta paga un po' più ampia in chi le tasse le paga tutte perché ha il prelievo alla fonte. E quindi potresti riuscire a far ripartire i consumi. Se tu hai un po' più in busta paga. Ma la curva di Laffer che citano alcuni ascoltatori, cioè se io abbasso le tasse invoglio di più a pagare, attenzione, ma quando tu hai evasori in questo paese che vadano il 70-80% dell'imponibile, ma cosa pensate che abbassando 3-4 punti allora quello mi paga le tasse? Quello non le paga perché è un evasore, non le pagherebbe neanche se portassi la tassazione al 10%. Quando uno evade l'80% dell'imponibile gli devi offrire il 5% di tassazione per forse farlo ragionare. Lo devi semplicemente beccare e condannare. Fine! Come negli altri paesi europei. Fine! Se no siamo come la Grecia e ci meritiamo destino greco. Detto ciò, noi continuiamo la nostra campagna sia per ascoltare gli imprenditori in difficoltà, sia per denunciare gli sprechi incredibili della pubblica amministrazione, delle regioni, del Parlamento. Le due cose si tengono, è inutile dire io evado perché tanto i parlamentari non tagliano, perché allora il parlamentare potrebbe dire io non taglio perché tanto il commerciante o la parità IVA evade, allora, o il libero professionista evade, non se ne esce più. E visto che noi continuiamo a bastonare la spesa pubblica improduttiva, cioè gli sprechi, se non altro, se non collusioni e tangenti, e raccontiamo anche oggi la crisi per gli altri, non quella vera, quella che cerchiamo di spiegare ogni giorno dal 2007, ma quella di chi vive in un altro mondo, evidentemente. Ma cos'è questa crisi? Ma cos'è questa crisi? Ah, la crisi. Beh, ogni anno, per esempio, l'Italia spende oltre 2 miliardi di euro in consulenze che le regioni, i comuni, le province, non Roma ladrona, le regioni, i comuni, le province. Attenzione a pensare sempre che il marcio stia solo a Roma, mentre poi vicino a casa sono tutte vergini. Allora, regioni, comuni e province utilizzano per incarichi assurdi di consulenze. Per esempio, vi prego, è tutto vero, il censimento dei piccioni. E chissà come si fa a censire un piccione poi, perché le risposte come le dà? I corsi di ginnastica cinese, il meteorologo del comune di Benevento che emanava comunicati sul clima nell'era di internet, il manager che consigliava al comune di Lecce come risparmiare energia usando lampadine che consumano poco, complimenti, o spegnendo le spie degli elettrodomestici. Io voglio dire, farei un monumento a questo manager. A Vicenza hanno pagato una consulenza per fare una pista ciclabile, ma qual è la consulenza per fare una pista ciclabile? La fai? Basta? No, boh. A Parma hanno dedicato 400.000 euro a varie sedute per il benessere, Le province, web TV presto abbandonate, servizi di rappresentanza, a Rimini 10.000 euro, infine le regioni. Beh, insomma, abbiamo raccontato dell'avvistatore friulano della neve, lo ricordate che c'era la regione Friuli, forse la riprendo, quella lì che aveva pagato qualcosa come 12.000 euro qualcuno per segnalare che c'era la neve, cioè, ma per la finestra c'era la neve, 12.000 euro, grazie. La regione Umbria ha avuto anche il consulente per la neve, quindi come abbiamo applaudito la regione Friuli, Venezia Giulia, anche la regione Umbria, complimenti per il consulente per la neve. Ma cos'è questa crisi? Ma cos'è questa crisi? Ah, la crisi. E poi invece anche le grandi corporate, per carità, quando i bonus ai manager vengono dati da una società privata non c'è niente di sbagliato, non sono soldi nostri, si lamenteranno gli azionisti. Certo, abbiamo visto dare dei bonus, ma non solo a Fondiaria Sai, in generale a società che perdevano parecchio, quindi in borsa hanno fatto male, però i manager si sono premiati. Cavoli degli azionisti, non è, finché i soldi sono pubblici possiamo lamentarci, ma... praticamente quello che sta capitando all'estero, devo dire, non in Italia, è che in un sempre maggior numero di assemblee degli azionisti si assiste agli azionisti che si scagliano contro i top manager. Io posso anche dire, finalmente, tu hai un pezzo di quella società, devi chiedere conto ai top manager sulle remunerazioni. E investitori contro il consiglio di amministrazione. L'oggetto del contendere sono sempre le remunerazioni, i bonus che si danno, che si autodanno i membri del consiglio di amministrazione. Ieri gli azionisti della compagnia assicurativa britannica Aviva hanno votato in maggioranza contro il piano di compensi ai dirigenti. In Svizzera il 37% degli azionisti di UBS ha bocciato i pacchetti di bonus ai vecchi e nuovi manager. Nei giorni scorsi lo stesso era successo sia all'assemblea del Credit Suisse che del gruppo bancario Barclays che di Citigroup. Questo è un applauso vero che va agli azionisti che finalmente si sono svegliati, almeno in questi gruppi. Allora, io sono sempre pronto a chiedere scusa se sbaglio, mi scrive un ascoltatore che dice che il censimento dei piccioni è invece utile perché per abbatterli devi prima sapere quanti ce ne sono. No, guardi, sono una specie invasiva, su questo siamo d'accordo. Devi avere permesso per abbatterli, devi fare prima un censimento, se no non ti autorizzano. Guardi, il punto, per carità, non è la non utilità del censimento dei piccioni, ma capire perché tra censimenti di piccioni e altre amenità le regioni, le province e i comuni spendono 2 miliardi di euro, perché un conto è dire che serve, un conto è vedere quanto è speso, E veniamo ai tagli della spesa pubblica. Il governo parla di, in realtà non parla di tagli, ma parla appunto di razionalizzazione della spesa pubblica, che dovrebbe parlare il neocommissario Enrico Bondi. Avrà una sorta di rimborso spese, sarebbe già al lavoro per individuare nelle spese per beni e servizi 2 dei 4 miliardi di risparmi attesi. Soldi che serviranno per scongiurare un nuovo aumento dell'IVA. Tra 2 settimane Bondi dovrà esporre il suo programma in Consiglio dei Ministri. E ancora, per l'operazione si punta molto anche sul ruolo della Consip, che è la società del Ministero dell'Economia operativa dal 1998 per la razionalizzazione e gestione della spesa pubblica, che dovrebbe fungere da centrale per le gare d'acquisto. Cioè, se tu fai gli acquisti in un'unica centrale, è chiaro che risparmi perché riesci a contrattare meglio, un po' come fanno le aziende, no? Allora, però io vorrei capire anche cosa ha fatto fino adesso la Consip. Ecco perché abbiamo invitato un ospite che già altre volte è venuto, ossia insegna economia all'Università di Tor Vergata, professor Gustavo Piga. Buonasera. Come sta? Buonasera. Bene, abbastanza bene, venerdì meglio del lunedì. Presidente, lei è stato presidente della Consip dal 2002 al 2005. Allora, è chiaro che la prima domanda, un po' così provocatoria, potrebbe essere: beh, cosa avete fatto in 3 anni se abbiamo questa spesa pubblica? Ma in realtà la domanda vera è: perché è così difficile poi razionalizzare intanto e poi anche tagliare in seguito, ridurre, diciamo, i costi degli acquisti e di altre amenità? Intanto le posso dire quello che non va rifatto di quello che ho fatto io in quegli anni. Oh, bravo Piga, bravo. Ecco. Allora c'era il modello era buono, l'idea era di razionalizzare e si decise di fare queste enormi gare tutte in mano a noi, alla Consip. E i risparmi ci sono stati. Il problema è che abbiamo buttato dalla finestra insieme all'acqua sporca anche il bambino, perché quando uno fa delle gare enormi ha questo piccolo effetto non di dettaglio che le piccole imprese non possono più partecipare. Vero. E quindi abbiamo avuto un impatto disastroso, anche perché la domanda pubblica è importantissima per le piccole imprese. E da allora infatti hanno un po' imparato, hanno smesso di fare gare enormi e soprattutto hanno levato l'obbligo, perché a quell'epoca addirittura c'era l'obbligo di far fare le gare alla Consip e le altre stazioni appaltanti, quelle locali, si dovevano astenere dal fare gare, no? Adesso si è tornati a un modello dove la Consip fa le gare, fissa dei prezzi, se vogliamo, di riferimento per tutte le pubbliche amministrazioni e in teoria le altre amministrazioni possono farsi le loro gare anche sul territorio, basta che rispettino i prezzi di Consip e non li superino. Il problema è che nessuno ovviamente ha mai controllato che questi prezzi non fossero superati, malgrado esistesse la legge. Allora, questo per quello che riguarda... Lei ha detto una cosa molto giusta, vedete che poi quando si entra nel dettaglio... Lei ha detto sì, facciamo le gare centralizzate, perché è chiaro che tu hai bisogno, poniamo, adesso ti dico una cavolata, di 100 sedie per 3 ministeri diversi, mi corregga se la cavolata è eccessiva, e quindi se io la richiesta la faccio in un'unica centrale, ho bisogno di 100 sedie, otterrò uno sconto probabilmente, se faccio chiedere 20 sedie a un ministero, 20 a un altro, 20 a un altro, lo sconto è più basso. Però in questo modo io escludo chi... non riesce a produrre 100 sedie. Le sedie è un esempio pericoloso e quindi interessante perché nelle sedie ci sono un sacco di piccole imprese. Perché per esempio credo fino all'anno scorso era così, le sedie non c'era l'obbligo di passare per la Consip, mentre per i computer dove tu hai poche multinazionali va benissimo perché c'hai la gara grande, non è un problema. Le sedie, quindi, se la Consip fa la gara di sedie non c'è l'obbligo di comprare in Consip, quindi il piccolo comune si può fare sul suo territorio la gara di sedie e aiutare la piccola impresa purché comunque il prezzo non superi quello di Consip. Però se posso dire, la vera questione qui è che non è che bisogna centralizzare le gare, bisogna centralizzare i dati. Qui nessuno ha i dati e se lei non ha i dati in tempo tra l'altro reale, io ricordo li riceviamo all'autorità dei contratti pubblici con un paio di anni di ritardo, lei come fa a bloccare in maniera credibile le stazioni appaltanti da fare gli sprechi? Lei ha bisogno di sapere in tempo reale che qualcuno sta comprando una sedia a 100 euro quando un'altra amministrazione la sta comprando a 50 euro e a quel punto, avendo il dato reale, dice a quella di 100 euro, mi dispiace, non li puoi comprare. Questo ce l'hanno tutti i paesi del mondo, io giro il mondo a vedere stazioni appaltanti tipo la Consip che non fanno le gare grandi. Le singole stazioni appaltanti, i comuni, le regioni fanno le loro gare su una piattaforma però unica, perché ormai ci possiamo permettere con tutta la tecnologia che abbiamo, che permette a un singolo ente centrale di controllare chi compra cosa quando. Ora, 3-4 anni fa è uscito uno studio importantissimo di 3 ricercatori, 2 della London School e 1 di Tor Vergata, che avevano tutti i dati, miracolo, di tutte le gare che si sono fatte in Italia con la Consip e con le altre stazioni appaltanti dal 2004 al 2006 e che hanno scoperto questi 3 signori bravissimi che hanno pubblicato sulla rivista scientifica più importante che esista al mondo, che si chiama l'American Economic Review, hanno scoperto che lo stesso giorno le stesse sedie venivano comprate a prezzi completamente diversi. Hanno fatto la somma di tutti questi sprechi che si facevano in Italia in quegli anni e sai che è uscito fuori? È uscito fuori uno spreco totale del 2% di prodotto interno lordo. Stiamo parlando di più di 30 miliardi di euro. Ecco dove si può 30 tagliare. Miliardi di euro. Ora però questa informazione, se lei non ha i dati in tempo reale e non riesce, è chiaro, non riesce a applicarla. Cioè, io non so che i dati, non basta però avere i dati, perché tu puoi dire i dati, guarda che i dati e poi le cose vanno avanti lo stesso. Devi avere i dati e poi il potere autorizzatorio di bloccare quello che sta comprando le sedie a 100 euro se c'è un'altra amministrazione, un ministero accanto che le sta comprando a 50. Tanto sempre di sedie stiamo parlando. Non è che una ha 4 gambe e l'altra ne ha 3. Senta una cosa, professor Piga, però questo vale anche e si può fare anche per le amministrazioni locali. Cioè, va bene l'apparato dello Stato, andrebbe fatto forse anche regioni e comuni, no? No, andrebbe fatto di più, perché se abbiamo un'evidenza è che gli sprechi sono sopra, una buona parte degli sprechi sono nella sanità, e ovviamente qui esce fuori la questione dell'autonomia, no? Ma è, non c'è nessun problema, lo Stato ha in mano la migliore pistola per mettere a tacere qualsiasi problematica federalista. Tu spendi, devi spendere 100, spendi 101, benissimo, io Stato ho i trasferimenti in mano, ti riduco i trasferimenti per ogni euro di spesa in più di quello che devi fare, di un euro, e quindi tu ti devi trovare 2 euro, supponiamo ti do 99 di trasferimenti. Perché lo Stato non l'ha mai fatto questo di usare la minaccia del trasferimento se uno spende male? Perché non ci sono i dati. E quindi giustamente la Regione ti dice no, ma io spendo bene. Tra l'altro attenzione che spendere, avere un prezzo alto, ecco perché è complicata la spending review, se qualcuno compra un prezzo alto e un'altra amministrazione compra un prezzo basso, non è detto che quella che compra un prezzo alto è quella cattiva. Immagini pasti per bambini in una scuola. No, è vero. Chi compra dei pasti caldi, buoni per i bambini, nutrienti, e chi compra dei pasti schifosi? Ovviamente quello che compra dei pasti schifosi ha un prezzo più basso. Quindi tu devi avere tutti i dati in tempo reale a quel punto, perché sei potente come Stato? Perché dici, no, guarda, i dati parlano chiaro. Tu stai comprando la stessa cosa, tu Regione Veneto, stai comprando la stessa cosa che compra la Regione Campania, la stessa identica cosa, a un prezzo più alto. A quel punto la Regione non può dire più niente, ma fino a quando non hai dati, è ovvio che loro ti dicono no, tu i trasferimenti me li devi dare, non hai nessuna prova. Certo, che io sono certo. Allora, resti con noi, professor Piga, ancora per qualche minuto, ho il meteo e la pubblicità, perché su questo, attenzione, allora, noi abbiamo avuto, lo cito ogni volta, ospite, l'amministratore delegato di Bravo Solution, che incredibilmente è stato chiamato dal governo britannico a fare la razionalizzazione della spesa, e ci raccontava proprio questo: mettere in rete i dati in modo che in tempo reale io possa vedere c'è qualcun altro che sta ordinando 1000 penne. Chiaro che se parliamo dell'esempio delle agendine dei senatori di ieri, non c'è nessun altro al mondo che ordina 17.000 agende per 315 senatori per 2 anni, però in generale c'è qualcun altro che sta comprando delle penne, che deve farsi una fornitura di fotocopiatrici o quello che è, a che prezzo lo stai comprando, e uno va a verificare. Vorrei capire da lei perché, e qui andiamo alla domanda forse più difficile, non si è mai fatto, cioè qual è l'interesse nel non agire in questi casi? Beh, io non ci posso credere che un'azienda italiana venda il suo software e la sua consulenza a Londra e non riesca a farlo in Italia. Dopo il meteo e la pubblicità. ...17:38 minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, professor Piga, lei che ha fatto parte appunto della Consip per 3 anni, 2002-2005, ci ha spiegato molto bene a cosa bisogna stare attenti, che più che andare solo alla centrale d'acquisti occorre, per la spesa della pubblica amministrazione, avere in tempo reale i dati incrociati, vedere se qualcuno non sta comprando la stessa cosa a un prezzo più basso, e avere anche la possibilità di bloccare quello che compra la cosa a un prezzo più alto, perché evidentemente c'è un dolo a quel punto. La Consip, lo ricordo, è appunto commissione, la società del Ministero dell'Economia che deve razionalizzare e gestire la spesa pubblica, e dovrebbe fungere da centrale per le gare d'acquisto. Domanda, mi dica la verità, il motivo per cui i dati non ci sono, le regioni non hanno il senso di quanto sforano, diciamo, rispetto al budget, non si riescono a incrociare, mentre una società italiana, la Bravo Solution, va a fare la consulenza e l'analisi e dà il software al governo britannico per fare la stessa cosa, e quindi invece qua niente, è un motivo politico. Guardi, quando noi arrivavamo in Consip eravamo così ingenui che ragionavamo in questo modo: la spesa per interessi ovviamente non si può toccare, la spesa per pensioni e stipendi è quella che fa scendere la gente in piazza se provi a tagliarla, cosa di più facile e più semplice che tagliare la spesa per acquisti di beni e servizi, che stiamo parlando circa 8-10% di prodotto interno lordo, e quindi è lì che troviamo il grasso, ma nessuno ci fermerà. Ed era così ingenuo come ragionamento. Le vorrei fare un esempio perché penso che sia utile. Immagini che lei compra 2 TAC, una la compra a 100 euro, un'altra la compra a 200 euro, quindi spende in totale 300 euro, e quindi c'è uno spreco sulla seconda TAC che paga 200 di 100 euro. Dove vanno quei 100 euro? Quei soldi ovviamente vanno in un conto corrente bancario dell'imprenditore che per qualche motivo è riuscito a vendere quella TAC a un prezzo troppo alto. È ovvio che se a quell'imprenditore singolo gli si dice guarda che il sistema cambierà in maniera tale che tu quei 100 euro in più che sono uno spreco per lo Stato non li avrai, lui comincia a vociferare, a fare opposizione, no? Però quello su cui io vorrei arrivare è portare il sistema dell'industria a pensare alla seguente cosa. Se quei 100 euro di sprechi, io adesso me li prendo, no? E io avevo 300 euro di budget come pubblica amministrazione e adesso mi spendo, su due tax spendo 200, cosa mi resta a me come pubblica amministrazione? Beh, mi rimane un meraviglioso 100 euro per comprarci quella terza essenziale tax. Il che vuol dire che il taglio degli sprechi non vuol dire taglio al sistema industriale, anzi, sono d'accordo con lei. Noi abbiamo un'occasione per creare un enorme ammontare di occupazione e di competitività per le nostre imprese se usiamo i soldi degli sprechi per fare vera spesa pubblica. Quindi il sistema industriale si dovrebbe schierare completamente a favore di questa riforma. Certo, è vero Dire che su fronte legalità il sistema confindustriale, a partire dalla Sicilia, ha fatto operazioni importanti. Penso all'iniziativa di espellere chi paga il pizzo e anche il rating di legalità all'impresa. Sono d'accordo con lei, però, perché vedo anche dei messaggi. C'è da sempre in questo paese la leggenda che anche lo spreco, anche la corruzione, anche la criminalità organizzata comunque crea ricchezza sul territorio. Questo nonostante decine di libri, di saggi dimostrino da decenni che non c'è ricchezza nella corruzione e nella criminalità. Andate a vedere come stanno le aree del paese dove c'è una forte presenza di camorra, mafia, 'ndrangheta e ditemi se i miliardi dell'eroina, delle tangenti, del pizzo, delle costruzioni hanno portato ricchezza, hanno portato sottosviluppo. Questo perché non è che Keynes funzioni con la mafia, per dirla come scrive qualcuno. No, ragazzi, cioè, se tu corrompi i soldi, poi li usi per farti il mega attico, magari a St. Moritz, per comprarti lo yacht che batte bandiera libariana, no, batte bandiera panamese, ma non restano qui. No, l'unico modo per redistribuire ricchezza è attraverso uno Stato che non sprechi e abbassi le tasse, porca. Quello era lo Stato che Keynes aveva in mente, non c'è il minimo dubbio, quello vuol pubblici, dire occupazione. E faccio lavori pubblici che servono, chiaramente. Assolutamente. Allora lì siamo tutti più ricchi. Ne abbiamo bisogno in questo paese. Ma di quelli veri, non di quelli stati. Tra l'altro le voglio dire un'ultima cosa, quello studio di quei tre, perché l'ha affrontato lei il problema, mi sembra giusto parlarne, quello studio di quei tre ricercatori era riuscito ad andare pure alla radice degli sprechi, e si era chiesto quanta quota parte di questi sprechi, il 2% di PIL, sono dovuti a corruzione e quanti a incompetenza. La cosa meravigliosa che loro trovano è che l'80%, forse sono stati un po' ottimisti, ma l'80% degli sprechi sono dovuti a incompetenza. Io le assicuro che in Inghilterra, quando hanno fatto la riforma degli appalti, hanno fatto uno sforzo mostruoso per dare cosa? Per dare competenza ai loro acquirenti pubblici e pagarli fior fior di quattrini per trattenerli, per non farli scappare al settore privato, perché diventano bravi, per fare cosa? Per fare degli appalti che portano dei risparmi molto, 10, 20, 30 volte superiori agli aumenti di stipendio. Quindi qui oggi deve partire un piano di razionalizzazione che vuol dire anche di monitoraggio della performance da un lato, ma anche di incentivazione a questa gente per farla diventare più competente e riconoscergli il merito dell'essere diventati più competenti con aumenti stipendiali e facendoli fare una progressione di carriera che a quel punto si meriterebbero. Quindi è un progetto, quello della Spending Review, che parte oggi, ma se lei si ricorda Thatcher e Blair ci hanno messo 15 anni a riformare una pubblica amministrazione che cascava a pezzi. Devo dire che qui il timore è che, come sempre in Italia, si faccia molto in fretta e così per dare un messaggio forte e poi si faccia male, nel senso che la cosa più importante è che questi tagli alle spese della pubblica amministrazione, riduzione dei costi, siano strutturali. A me interessa poco sapere che tu hai tagliato 4 miliardi quest'anno se poi fra 3 anni me li ritrovo. Preferisco sapere che tu tagli di 1 miliardo all'anno per i prossimi 10 anni in maniera strutturale. Questo vorrei vedere io. Sul fronte tasse, però, perché stiamo dicendo quanto spreca, adesso vi leggo anche una lista pazzesca sui costi della sanità, resti con noi Piga, ma c'è chi dice io non pago le tasse perché rifiuto di dividere il 60% di quello che guadagno con uno Stato che non fa nulla per me. Allora, A parte il fatto che lei è illegale e basta, cioè non è che io passo col rosso perché rifiuto e non accetto il fatto che quel rosso lì è inutile, andiamo all'anarchia. Ma in secondo luogo il suo ragionamento fa acqua a tutti i buchi possibili, perché quando lei sta male va in ospedale, l'ambulanza la chiama, se la sua casa prende fuoco li chiama i vigili del fuoco, se sua figlia ha un problema o suo figlio ha un problema lo chiama la polizia, no? Poi magari il treno deve pure funzionare, la spazzatura gliela porteranno via, qualcuno pulisce le sue strade, no? Allora tutta questa roba qui lei non la usa, lei mi sta dicendo che lei non paga le tasse perché tanto lei non va in ospedale, non ha bisogno della polizia né dei vigili del fuoco e quant'altro, ci dica dove abita, boh. Figa, grazie, vorrei una base, anzi resti con noi che le leggo due o tre cose che questa volta non riguardano Nord-Sud, lì abbiamo la sacca di plasma di Reggio Calabria che costa 16 volte quella della Val d'Aosta, sangue calabrese costerà di più, e abbiamo i cerotti che costavano a Palermo, nell'AS di Palermo 16 volte il prezzo normale di un cerotto finché non è arrivato il commissario straordinario, ma anche al nord, insomma, abbiamo corpi fisici completamente diversi. Allora, un pacemaker della marca Symphony costa in Veneto 1780 euro, costa in Piemonte 2168 euro. Una valvola aortica percutanea costa 19.000 euro alle Molinette, al Niguarda Milano, ma 20.000 euro, 1.000 euro in più alle Molinette. E che? Ma la cosa più bella è anche quella sui defibrillatori bicamerali, perché costano a Bolzano 16.100 euro e a Trento 13.500. Per non parlare degli elettrocateteri permanenti che costano a Firenze, all'ospedale di Careggi, 784 euro, mentre in Piemonte 1.420 euro. A dimostrazione che poi ogni tanto il sud è nord e sud. Ma andiamo avanti. La valvola mitralica meccanica costa 2.200 euro in Toscana e 2.500 euro all'ospedale di Alessandria. Gli stent medicati per la distruzione di arterie costano a Terni, quindi non al nord, 594 euro e a Genova 1.250 euro. Quindi, e chiudo con la medicazione in alginato, che nella stessa regione può variare da 1,22 euro a 1,84 euro. Piga! Bocca al lupo, ma l'ha sentita la lista, no? No, dico, questo è il messaggio, è chiarissimo. Possiamo tranquillamente farcela se questi dati che lei dice sono disponibili in tempo reale, prima che la gara sia aggiudicata, a un'autorità centrale, se no non se ne esce. Ne possiamo parlare come di giornalismo dopo e essere tutti d'accordo, ma bisogna dare il potere da qualche parte per bloccare prima queste cose. L'ha chiamata Bondi, professore? No, ma so che Bondi ha tante cose da fare. Io spero solo una cosa, che Bondi, in questo momento, sa che il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha due piani, la Ragioneria Generale dello Stato sta al secondo piano e tipicamente i ministri vanno sempre al primo piano. Io spero che a Bondi abbiano dato un ufficio al secondo piano, perché deve stare lì dove stanno i dati, e spero che la Ragioneria per la prima volta cominci un po' a aprire le sue stanze, così riusciamo a vedere un po' di quei dati che non abbiamo visto in tutti questi anni. Grazie al professor Gustavo Piga, appunto economista all'Università di Tor Vergata, ex presidente della Consip dal 2002 al 2005, traffico e poi la borsa. 17:50 minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, per quello che riguarda la borsa, no, devo dare una buona notizia proprio della borsa, perché in periodo di notizie veramente buone, veramente poche, e soprattutto di quelle che arrivano dallo Stato, oggi sono stati sbloccati ben 2 miliardi di rimborsi IVA per le imprese, quindi boccate di ossigeno per oltre 11.000 parità IVA, imprese, artigiani, professionisti, 2 miliardi e 2 per la precisione, lo ha comunicato l'Agenzia delle Entrate, in particolare 400 milioni di euro erogati nei prossimi giorni, 1 miliardo e 8 pagati a partire dalla seconda metà del mese di maggio. Somma complessiva rimborsata nel 2012 arriverà a 3 miliardi e 100. Adesso la borsa. Borsa negativa a Milano, ma come dicevamo ancor più nel resto d'Europa, meno 1,40% Milano, meno 1,90% Parigi, meno 2% Francoforte, meno 1,90 anche a Londra e meno 1,20 negli Stati Uniti. Dati americani sull'occupazione deludenti, nel senso che si sono creati posti di lavoro ma meno delle attese, e quindi le borse vanno a vendere, perché col petrolio che per la prima volta dopo 4 mesi scende sotto i $100, i segnali di un rallentamento che si sta diffondendo nell'economia, perlomeno nelle economie occidentali, ci sono tutti. E allora parliamone come sempre con Radio Cori Sole 24 Ore. Livia Zancaner, buonasera. Buonasera. Al di là di questo, i petroliferi, partiamo da lì, dai. Sì, allora, il petrolio, come hai detto tu, sta perdendo oltre il 4% ed è sceso sotto la soglia dei $100, ora tratta intorno a quota $98 al barile. Questo quindi ha penalizzato tutti i titoli legati al petrolio. Saipem quindi ha perso il 4,5% circa, Tenaris il 4,2% e ha fatto leggermente meglio Eni, ma che ha comunque perso oltre il 2%, chiudendo a meno 2,22%. Allora, ancora, per quello che infatti tu citavi, Saipem meno 4,47, Tenaris meno 4,22, eppure Eni oggi bene non è andata. Devo dire, hanno respirato, meno 2,22, hanno respirato un po' le banche oggi, però Steamacroelectronics ha perso 4,26, mentre Nokia è il peggior titolo praticamente assieme a Premuda, perde il 10% oggi. Sì, allora bisogna dire che hanno risentito, i tecnologici hanno risentito del calo dei listini e dei cattivi dati sul lavoro americano in tutta l'Europa, con il settore che ha perso oltre il 3%, e anche negli Stati Uniti il settore sta facendo molto male, ed è per questo quindi che anche in Europa ST e Nokia hanno risentito dell'andamento negativo del comparto. Ancora per quello che riguarda i titoli, Piaggio, nonostante il boom, il buon successo in Vietnam, in India, il nuovo stabilimento, oggi non va benissimo, eh? No, infatti Piaggio chiuso in calo con il titolo che ha perso il 2,4%, anche Piaggio ha risentito dell'andamento negativo del comparto dell'auto con la Galassia Fiat, che ha chiuso quindi in netto calo, ma soprattutto per quanto riguarda Piaggio ha risentito dei dati sulle immatricolazioni delle due ruote in Italia, dati che ad aprile hanno mostrato un calo delle vendite del 38,9%. Ricordiamo che l'Italia al momento rappresenta oltre il 30% delle vendite in Europa della Piaggio, ma gli operatori sottolineano che il calo dell'Europa e quindi dell'Italia potrebbe essere in parte controbilanciato dal migliore andamento di altri mercati. Ancora per quello che riguarda poi invece Mediaset, qui il calo è pesante, ma poi si è un po' ridotto, meno 1,87%, e invece Fiat meno 3,60, sia su Fiat Auto che su Fiat Camion e Trattori. Pirelli, nuovi realizzi dopo il titolo aveva corso molto, meno 3%, Exor meno 2,70, Tods meno 2,60, Prismian, l'ex Pirelli Cavi meno 2,40%. Vorrei chiudere però su due notizie un po' più concrete, quindi Mediaset meno 1,90 e Telecom Italia meno 1,20. Sì, allora per quanto riguarda Telecom ci sono delle indiscrezioni sulle possibili dimissioni dell'amministratore delegato di Team Brasil Luca Luciani a seguito dell'inchiesta sulle SIM false, che potrebbe finire anche con un rinvio a giudizio per il manager. Il titolo ha risentito delle indiscrezioni, ha perso, come dicevi tu, oltre l'1%. Per quanto riguarda Mediaset ha chiuso in calo, continua a pesare il trend della raccolta pubblicitaria negativa, ma gli operatori sottolineano che le azioni potrebbero parzialmente beneficiare dei buoni numeri riportati dalla controllata spagnola e dalla controllata A-Towers. A-Towers è la società che è nata dalla fusione tra DMT e alcuni asset di elettronica industriale di Mediaset. Oggi il titolo A-Towers ha infatti guadagnato oltre il 3% grazie ad una trimestrale giudicata dagli analisti superiori alle attese. E questo per quello che riguarda sia Telecom che Mediaset. Edison, il prezzo si è avvicinato all'offerta pubblica di acquisto? Sì, allora, 0,89, Edison, Edison ha chiuso in rialzo del 0,86% ad un prezzo di 0,8795. Quindi vicinissimo a 0,89. Assolutamente sì. Dunque, su Unicredit, quanti secondi ho ancora? 20-30 secondi. Al volo Unicredit, perché il 10 maggio usciranno i conti di Unicredit. Sì, il 10 maggio usciranno i conti del trimestre, il titolo ha chiuso leggermente sotto la parità, meno 0,22%, c'è il consensus degli analisti sui conti che per il primo trimestre vedono un utile netto a 805 milioni di euro contro gli 810 milioni dello stesso periodo del 2011, quindi i conti in miglioramento per Unicredit. Grazie, grazie, buon fine settimana a tutti i colleghi di Radio Corri, il Sole 24 Ore. Grazie a Livia Zancanelli, il GR. Poi, ahimè, lo dico, vorrei non farlo, ma ci occuperemo di nuovo degli imprenditori in difficoltà, anche perché oggi le vedove degli imprenditori che si sono suicidati hanno manifestato a Bologna. 349-238-6666 per i vostri sms. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. E allora adesso ci occupiamo del weekend, che sarà un weekend cruciale per l'Europa, lo dico senza, sperando di non essere troppo retorico perlomeno, perché tra l'altro si voterà non solo in Francia ma anche in Grecia, in Germania e le amministrative. In Italia è cruciale, è chiaro che il fronte più importante, è inutile dirlo, è quello che abbiamo affrontato anche ieri, quello francese. Oggi Hollande, che è il candidato più forte in questo momento, ha rassicurato Angela Merkel e i tedeschi sul rispetto del fiscal compact, quindi sulla parte che riguarda l'ottemperare gli accordi presi per ridurre deficit e debito. Però attenzione, perché si vota anche in Grecia. 10 milioni di elettori chiamati alle urne, di cui 670.000 tra i 18 e i 23 anni, ossia i più colpiti dalla disoccupazione. 349-238-6666 per i vostri sms. Poi parleremo anche chiaramente dell'iniziativa Disperati Mai e del corteo, manifestazione delle vedove oggi, a vedove di imprenditori che si sono suicidati a Bologna. Voto greco che preoccupa anche l'Europa, nel senso che l'Europa vorrebbe capire qual è l'effettiva volontà dei partiti e di portare avanti le riforme votate da questo governo greco di unità nazionale, una volta ottenuto l'aiuto, lo ricorderete, dell'Unione Europea, del Fondo Monetario. E però anche in Grecia si teme che, venuta a meno l'emergenza più immediata, poi i partiti cominciano di nuovo a sbraccare. Vittorio Darold, inviato del Sole 24 Ore ad Atene, buonasera. Buonasera a voi. Che clima si respira ad Atene? Un clima abbastanza tranquillo, perché se l'Europa è con il fiato sospeso, qui ad Atene, che è abbastanza rilassato. No, dico, prego. Perché appunto c'è una situazione, ieri sera c'è stata la prima grande manifestazione nella capitale di Neodemocrazia, che è il partito conservatore che danno i sondaggi in vantaggio, quello guidato da Antonis Samaras, quello che non voleva il primo aiuto quando c'era Papandreou al potere e che ha creato molta turbolenza, una forte opposizione. Ieri ha stemperato le critiche perché vede arrivare appunto la possibilità di vincere le elezioni a sua volta. È nel partito, attualmente il suo partito è nella coalizione insieme appunto al Partito Socialista e al Laos, questa coalizione che è guidata dal tecnico Lucas Papademos. Il problema qual è? Che non vincerà secondo i sondaggi, quindi non ci sarà un unico partito, come era consuetudine negli ultimi 40 anni in Grecia, che ci fosse un partito che vince decisamente, quindi un elemento di stabilità, dovrà fare coalizioni. Forse però non riuscirà nemmeno ad avere una coalizione con il Partito Socialista, quindi con i due antagonisti, perché messi insieme oggi sembra che dall'80% dei voti scendano al 40%. Quindi ci sono partiti populisti, partiti radicali a destra che a sinistra, che si sono scissi dai due grandi partiti e che si accomunano al no all'austerity. Dopo 5 anni di recessione, i greci sembrano intenzionati a dire basta ai sacrifici. Ecco, questo è chiaro che potrebbe avere un risvolto molto preoccupante per l'Europa. Allora, io ho visto gli ultimi sondaggi, il partito Nea Democrazia, che è centrodestra, otterrebbe il 22,3%, insomma, 22% delle preferenze. Il PASOK, il partito socialista, sarebbe al 18%, e poi il partito che tu citavi, il partito nazionalista greco, che è contrario al piano di salvataggio concordato con l'Unione Europea e con la Banca Centrale Europea, al 10%. Se fossero confermate però queste proiezioni, Vittorio alla fine terrebbe l'accordo con l'Europa e con la Banca Centrale Europea. Ma dovrebbero arrivare appena a 151 voti perché il Parlamento è di 300, quindi avrebbero una maggioranza molto risicata. Quindi basta che alcuni, perché il partito maggiore in questo momento è quello degli astensionisti, cioè quelli che non vogliono più andare a votare, si parla di 35-40% di greci che sono in qualche modo ormai stufi della politica, delle promesse mancate, di troppe promesse mancate negli ultimi anni, per cui potrebbero non andare. Ma se dovessero andare questi, diciamo, astensionisti, perché questo è il problema, e i sondaggi in Grecia nell'ultima settimana sono vietati, quindi l'ultimo che vale è quello che tu hai appena citato, allora il problema è che se dovessero andare questi, diciamo così, voti antisistema, andrebbero alle ali estreme dei due partiti, questi nuovi partiti che sono nati proprio dalle costole dei due partiti principali e che si accomunano, seppur ideologicamente opposti, per un'unica situazione: non vogliono più accettare il piano di sacrifici, perché a giugno, secondo questa agenda dettata dalla Troika, il governo greco in carica dovrà decidere altri 11 miliardi di tagli per il 2013-2014, il che vuol dire altri tagli ai salari e alle pensioni. Quindi situazione molto complessa. Ecco, io ti vorrei chiedere una cosa sola, però, perché già in Italia c'è molta discussione sulla crisi che colpisce quasi tutti, cioè una parte della popolazione, i pensionati, i lavoratori che devono andare in pensione, chi ha a che fare con Equitalia, chi non trova credito dalle banche, e via così, la crisi la sta pagando. E poi c'è un mondo che raccontiamo con la rubrica "Ma cos'è questa crisi?", che invece la crisi non la vede, anche parte della cosiddetta casta della politica, che dovrebbe dare l'esempio. Però, e poi c'è il mondo anche dei manager, super bonus, abbiamo letto prima la notizia che si stanno ribellando molti azionisti in Svizzera e in Gran Bretagna e bocciano all'assemblea degli azionisti quanto deliberato dal CDA, finalmente a mio avviso. Non ha senso che un manager becchi un mega bonus se il titolo perde in borsa e l'azienda va peggio, su. Però in Grecia arrivano notizie un po' strane, perché c'è una crisi economica spaventosa, Vittorio, e lo sappiamo. È il quinto anno ormai di recessione per la Grecia. Le vendite di auto nuove ad aprile 2012 hanno registrato un crollo ai minimi storici, cioè meno 57% di auto nuove vendute. Immaginate cosa sarebbe qui se facessimo meno 57%. Però attenzione, le Porsche, che non sono esattamente un'auto proprio economica, hanno fatto più 800% nelle vendite. Pensate che in Grecia ad aprile hanno venduto 18 Porsche, o Porsche come si dice, contro le 2 vendute nell'aprile 2011. Anche la Lancia, nella sua fascia alta, ha venduto il 400% in più, 995 auto di fascia alta contro le 19 dell'aprile. Che vuol dire? Che c'è una parte della Grecia pure lì che la crisi non la vede? Esattamente. Qui la battuta che si sente nei bar è "Cresos don't have crisis", cioè il re Creso, che in Creso, certo, in greco appunto vuol dire ricco, perché appunto deriva dal re Creso, non vedono la crisi. Questa mattina sono andato a Kifisia, che è un sobborgo, certo, a nord di Atene, uno dei più belli, è un sobborgo per persone molto agiate, e effettivamente la sensazione è di non vedere proprio la crisi. Come dici tu, ci sono Porsche o macchine tedesche di alta cilindrata, macchine italiane, Ferrari, Maserati, auto quindi di grandissima cilindrata. Ma lì non monta un po' di reazione sociale? Cioè, nel senso che quello che tu stai descrivendo è un modello un po' sudamericano, centroamericano, no? una parte della città blindata quasi, fatta di ricchi che vivono con uno standard, diciamo, invariati, Porsche, e poi il resto del paese che raccatta, adesso esagero, ma insomma abbiamo visto scene di chi andava a raccattare la spazzatura per trovare qualcosa da mangiare, spazzini pagati 400 euro al mese. Sì, esattamente. Non monta, lì non monta un po' di odio sociale? No, non monta, anche se, allora, oppure monta in maniera, come dire, immediata, passeggera, ecco, hanno dei momenti di grande sfogo quasi collettivo, e poi appunto c'è il silenzio fino alla prossima manifestazione violenta nei quartieri di Exarchia, soprattutto quella appunto degli anarchici. Il vero problema è che la crisi sta distruggendo la classe media, cioè la classe media greca che aveva un reddito non solo in Grecia, dignitoso. Esattamente, qui si vede proprio questo, che sta gradualmente finendo questa classe media che aveva avuto un incremento di reddito, e in qualche modo oggi ho raccolto delle testimonianze di chi dice ci avevano illuso che potevamo in qualche modo vivere al di sopra dei nostri mezzi, con carte di credito facili, crediti bancari molto facili, e oggi invece tutto questo sogno di cui siamo stati in qualche modo sia artefici ma anche carnefici, siamo oggi all'incubo. Quindi il sogno greco si è trasformato in un incubo. Il sogno era nato quando nel 2001 la Grecia è entrata all'ultimo, proprio alle rincorse nell'eurozona, e c'erano dei tassi bassissimi, ma a un certo punto questo ha dato un boom, però che si basava solo su consumi interni, su investimenti carenti, sì. E tutto questo sono arrivati appunto, i nodi sono arrivati. Beh, attenzione, lo dico perché quello che vorremmo evitare, questo vale anche per la Germania, sapete che è la mia ossessione, ma mi sembra che non sia più solo la mia, mi sembra che sia l'ossessione anche di Mario Draghi, anche di Hollande, lo stesso Sarkozy, insomma. Se si profila un destino sudamericano o centroamericano per la Grecia, che è purtroppo lo stato pilota, chiamiamolo così, attenzione, perché avere la scomparsa della classe media significa piombare in quello che è stato, sono stati gli anni 90 per il centro e Sud America, che loro chiamano tuttora il decennio perduto, dove non si è mosso nulla, e non è un bel muoversi, una bella evoluzione della democrazia se scompare quella che è la spina dorsale della democrazia, cioè la media e piccola borghesia. Grazie a Vittorio D'Arold, Traffico, e poi parliamo proprio della media e piccola borghesia italiana in difficoltà, che torniamo con l'iniziativa Disperati Mai. Piacere, Luigi delle Bicocche, sotto il sole faccio il muratore, mi spacco le nocche. Sono un eroe, perché lotto tutte le ore, sono un eroe, perché combatto per la pensione, sono un eroe, perché proteggo i miei cari dalle mani dei sicari, dei cravattari. Vivo il mestiere, sono un eroe, straordinario tutte le sere, sono un eroe, e te lo faccio vedere, ti mostrerò cosa so fare col mio superpotere, sono un eroe. Buonasera, sono co-titolare con il marito di una piccola società nel milanese, 7 dipendenti, esistiamo dal 1990, tutti i nostri averi sono sempre stati riversati nella società, anche lo scorso mese abbiamo riversato nella società tutta la liquidità di cui disponevamo. Solo a fine del 2010 abbiamo deciso di comprare casa, abbiamo versato un acconto pari ad un terzo del valore dell'immobile, a dicembre 2011 abbiamo fatto richiesta di un mutuo per il saldo. Oggi, dopo 4 mesi, la nostra richiesta è stata respinta perché la banca, valutando i bilanci della nostra azienda, ha notato criticità e tensione finanziaria. Praticamente una beffa, stanno riducendo i fidi aziendali, non ci concedono il mutuo per l'acquisto della prima casa. Risultato? Rischiamo di chiudere e di perdere l'acconto versato per l'acquisto della casa per inadempienza contrattuale, essendo prossima la scadenza pattuita per rogitare. Ho un figlio ventenne universitario all'estero. Se continua così sarò costretta a chiedergli di interrompere gli studi e rientrare in Italia. Non posso più permettermi di mantenerlo fuori e interrompendo così un suo sogno ed una possibilità in più per il suo futuro. Ho vissuto il terrore di un figlio ammalato di leucemia, ma l'abbiamo vinta sulla malattia perché eravamo sostenuti da specialisti che lottavano accanto a noi. Ora stiamo lottando da soli contro una crisi che non lascia scampo, nonostante gli specialisti. Piacere, Luigi delle Bicocche, sotto il sole faccio il muratore, mi spacco le nocche. Sono un eroe, perché lotto tutte le ore, sono un eroe, perché combatto per la pensione, sono un eroe, perché proteggo i miei cari. Buonasera, ho 45 anni e ho una ditta di impianti elettrici. Sono quasi un ex imprenditore in quanto ho deciso di chiudere l'attività autonoma, anche se avevo 4 dipendenti, poi 3, poi 2 più 1 e poi sto costretto a lasciare a casa anche l'ultimo. Ogni volta che davo a loro la bella notizia mi sentivo uno schifoso verme, anche perché la colpa non era la loro, ma di questo mercato, di questo stato che rimane indifferente ai veri problemi delle aziende. Purtroppo, a partire dalla crisi e non ultima la pressione fiscale, sono state gambizzate le piccole aziende. Volete sapere se avevo deciso di farla finita? Sì, è un pensiero continuo, specialmente nei momenti di sconforto e quando suona il telefono e vedo il numero della banca. Il perché non sono arrivato a tale gesto è subito detto. Ho 2 figli, Francesco di 15 anni e Alessia di 13, e una moglie che dopo avergli manifestato il mio stato d'animo è sempre pronta a darmi una mano e ad attraversare quei momenti. Anche ai miei figli ho dovuto spiegare il mio stato d'animo perché più volte mi hanno visto piangere. È 2 anni che non prendo uno stipendio perché prima c'erano da pagare gli stipendi dei dipendenti e con il resto, oltre ad onorare i fornitori, c'era da onorare il socio Stato. Peccato che questo socio non sia mai venuto a fare un'ora di lavoro, ma si fa vedere solo quando chiede soldi. È uno schifo, noi in ginocchio e loro si sistemano i conti correnti più o meno in maniera lecita. Dovrebbero loro farla finita. Cristina Carpinelli a Bologna, inviata a seguire, ha seguito la manifestazione delle vedove degli imprenditori. Queste sono alcune delle lettere che stiamo leggendo da settimane, che arrivano all'indirizzo disperatimai@radio24.it. Devo dire una cosa, poi ti lascio la parola a Cristina. Moltissime di queste lettere, accanto all'orgoglio e alla dignità, oltre che alla paura, citano le mogli, i familiari come l'unico baluardo. Beh, un applauso e un complimento, un monumento alle mogli o ai mariti in altri casi che stanno vicini a queste persone, perché da quello che vediamo veramente rappresentano l'ultima spiaggia. Cristina. Sì, oggi in effetti c'è stata forse la prima manifestazione storica di chi tra gli imprenditori non ce l'ha fatta, l'ha ospitata la città di Bologna. Erano un centinaio a sfilare per le vie del centro, dall'ospedale maggiore fino all'agenzia delle entrate. Erano, come dicevi tu, le mogli, le vedove degli imprenditori che si sono tolti la vita perché sovrastati dalla crisi in cui versava la loro attività. A guidare il corteo, l'anima di questa manifestazione, c'era Tiziana Marrone, la moglie di Giuseppe Campaniello, che come ricorderete il 28 marzo scorso si è tolto la vita dandosi fuoco davanti all'Agenzia delle Entrate. Ha detto questa donna: mio marito non era pazzo, era depresso, schiacciato dalla crisi. Questo lo ha detto prima di leggere i nomi e cognomi di chi in questo 2012 si è tolto la vita. C'era una delegazione di imprenditori venuti da Vicenza, c'era una rappresentanza per il comune di Bologna, unica istituzione presente. Il corteo ha sfilato esibendo bandiere bianche, tra 6 mesi si ritroveranno di nuovo sempre qui a Bologna. Bologna. Allora, poi... Cristina, un attimo che volevo far sentire alcune voci che ci hai mandato, iniziamo da quella di Tiziana Marrone che tu citavi, vedova appunto di Giuseppe Campaniello. Quella che sentirete dopo è invece quella della vedova, della signora Lucilla Raffagnini, vedova di Gabriele Croatto, suicidatosi nel febbraio del 2011. Giuseppe si è accollato tutto da solo, in silenzio, per proteggere la propria moglie. Giuseppe ha chiesto a questi signori scusa per non aver potuto pagare il suo debito. Questo era Giuseppe, una persona, una brava persona, con la B maiuscola. Evidentemente non è più malcontento questo. Questa è disperazione, la gente ha bisogno di aiuto. Lo scrive, dice: a tutto c'è un limite, anche alla vita. Quando uno perde il rispetto di se stesso, è così, chiede perdono e non c'è più. Cristina, tu intanto hai intervistato anche qualcuno che forse una risposta potrebbe darla, no? Sì, e tra l'altro prima di lanciare questa intervista volevo dirti che io ho anche parlato, poi andando in giro per Bologna, tra piccoli imprenditori, artigiani, e c'è un messaggio che secondo me va dato anche a chi è in questo momento. Sì, abbiamo 2 minuti, Cristina, prego. Sì, è quello di fermarsi prima, mi dicevano gli imprenditori, quando si capisce che non c'è più speranza di recupero. Poi l'intervista invece rilancia in qualche modo una soluzione del presidente di Unifi di Reggio Emilia, Sergio Cappatti, che ci ha raccontato di non aver mai avuto una situazione così da gestire e poi appunto ci ha fornito anche una soluzione possibile. Sentiamolo. Una situazione così non l'abbiamo mai vista. Noi pensavamo 3 anni fa di poter mettere a riparo le nostre imprese, una parte con gli ammortizzatori sociali pagati dalla cassa integrazione e dalle EBER regionali per i dipendenti, mentre noi come consorzio Fidi aiutare attraverso le garanzie le imprese. Oggi dobbiamo registrare che a 3 anni di distanza purtroppo le condizioni non migliorano, anzi tendono a peggiorare, il che significa che anche strumenti come i nostri rischiano di andare in pericolo, perché sono strumenti che sono stati creati proprio per le emergenze. Così. così appunto Sergio Capatti. Cristina, tra l'altro è molto importante quando tu ricordavi, quando ti hanno detto le varie vedove, ma pensa un po' se dobbiamo arrivare a Focus Economia dopo 11 anni a parlare delle vedove degli imprenditori. Ma dicevo, molto importante quello che tu ricordavi, e cioè fermatevi un attimo prima. Noi un'iniziativa abbiamo provato a farla, ripeto, è molto limitata, vogliamo solo darvi voce, ma insomma fermatevi un attimo prima. E vorrei chiudere con un altro direttore di banca che ci scrive raccontando situazioni a mio avviso inaccettabili. Buonasera, vorrei scrivervi dopo aver sentito il direttore di una piccola filiale di banca, e ho deciso di scrivere anch'io perché faccio lo stesso lavoro. Non sono solito partecipare così attivamente a iniziative simili, ma qui ci vuole un cambio di direzione. Sono stufo di sentirmi dire, quando chiedo autorizzazione ai superiori per lasciare sconfinare un cliente, dei soliti 50-150 euro, che noi non siamo un ente di beneficenza. Con queste risposte noi banche rischiamo di avere sulla coscienza il destino di chi ci sta davanti, o magari della sua intera famiglia, e questo sì è stressante. Non gli obiettivi di budget, non mi sono mai importati, figuriamoci. Le banche devono capire che in questi momenti di forte discontinuità storica abbiamo un ruolo sociale da ricoprire. Io nel frattempo, dove la banca non mi fa arrivare, faccio da me, ma non posso ovviamente pensare di sostenere in proprio tutti i nostri clienti. A livello psicologico finisce che un bancario con un po' di coscienza si trova a sua volta tra i disperati, un direttore di filiale. Banchieri, 1 miliardo a San Raffaele, 1,3 miliardi a Fondiari Assai di debiti, e poi il problema sono gli sconfinamenti a 50-150 euro? Grazie, grazie Cristina Carpinelli in collegamento con noi da Bologna, grazie Mauro Del Conno e Barbara Bianchi per l'assistenza anche oggi in redazione. Focus Economia torna lunedì dalle 17 in poi. Un augurio di un buon fine settimana da Sebastiano Barisoni. Radio 24, la passione si sente.